Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. America Latina, la Colombia entra a gamba tesa in Venezuela. Immigrazione, il nuovo patto europeo. Ma è davvero così? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. La Organización de Naciones Unidas entregó un reporte donde confirma que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. La situación que se presenta allí es insostenible. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, un nuovo viaggio che ci porterà dapprima a Bruxelles per andare a analizzare quello che è un nuovo patto sull'immigrazione presentato da Ursula von der Leyen, dalla commissaria Johansson, che con un colpo di spugna, vedremo quanto è efficace, va a rivedere il regolamento Dublino, quel regolamento nato negli anni 90, ormai piuttosto vetusto, che imponeva sostanzialmente ai paesi in prima linea nella gestione del fenomeno migratorio di espletare tutte le richieste d'asilo, e facendo sì che Spagna, Francia, Italia e Grecia e Italia soprattutto ultimamente, si sobbarcassero il peso non soltanto economico del fenomeno migratorio. Qualcosa è cambiato oggi, cercheremo di capire in che senso e in che direzione stanno cambiando le cose. Poi andremo in America Latina, ancora una volta a parlare della crisi venezuelana, ma con i vicini, nemici e amici colombiani, e in particolare nella persona del presidente Iván Duque, che puntano il dito in maniera perentoria e molto molto muscolare contro Nicolás Maduro, con quali conseguenze avremo ospiti d'eccezione in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordo che anche questa puntata è stata confezionata con Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console ritroviamo Valeria Bernardi, e per commentare vi ricordo il 349-238-6666, i nostri social, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24 su Facebook, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Queste le nostre coordinate, questi i nostri titoli. La prima cosa da fare però, come ogni giorno, è sfogliare i nostri dossier internazionali. È utile fare il punto sull'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è tenuta al Palazzo di Vetro di New York, sostanzialmente in buona parte virtualmente, come potete immaginare. Ieri proprio in diretta vi davamo conto di una serie di stilettate che il presidente statunitense Donald Trump rivolgeva al collega Xi Jinping, ma non c'è stato solo questo. Il videomessaggio dell'inquilino della Casa Bianca è stato molto molto perentorio, è durato pochi minuti, era registrato, ha sostanzialmente dichiarato che la Cina ha infettato il mondo volontariamente con il coronavirus. Molto più pacato, sobrio evidentemente nei toni, come è lo stile di Pechino, la risposta di Xi Jinping, ha detto: non vogliamo entrare in una situazione di guerra fredda con nessun paese, guerra fredda peraltro tra Stati Uniti e Cina, che oramai è consolidata, cristallizzata da parecchi mesi, tanto che analisti di spessore e di caratura internazionale tornano e ricominciano a parlare di nuovo bipolarismo. Xi Jinping però ha aggiunto un'altra menzione molto importante su quello che è l'inquinamento e il cambiamento climatico, le emissioni di anidride carbonica. L'obiettivo è il bilanciamento proprio di queste emissioni entro il 2060. È interessante anche vedere che nella riunione di ieri ci sono stati anche alcuni attacchi laterali proprio alla Cina. Uno è arrivato dal presidente filippino Rodrigo Duterte, soprannominato da alcuni lo sceriffo a causa della sua muscolarità nel condurre la lotta non soltanto al narcotraffico ma anche a chi fa uso di droghe, una guerra che vera e propria, una guerra intestina, una guerra civile quasi, che ha portato a centinaia di morti negli anni. Nella giornata di oggi sostanzialmente Duterte ha sottolineato quella che è stata una vittoria legale di Manila contro Pechino alla Corte dell'Aia in relazione alla disputa nel Mar Cinese Meridionale. Questo è un tassello importante perché sapete che spesso torniamo a parlare di quei mari e la Cina ha parecchi contendenti su quelle importanti, ricchissime, soprattutto in termini di pesca, acque che sono antistanti alle coste meridionali cinesi. È intanto, mentre trascorrevano le ultime 24 ore, Alexander Lukashenko, l'ultimo dittatore d'Europa, così da molti è stato bollato, ha prestato giuramento per il nuovo mandato. Lo ha fatto in tutta segretezza, una cerimonia particolarmente riservata che, secondo molti analisti, ha in qualche modo suggellato quella che è la sua debolezza politica in questo momento. Nessuna cerimonia particolare, nessun eco mediatica, forse sperava Alexander Lukashenko di non attirare ancora una volta i riflettori dei media, che già invece però sono puntati sulla situazione di Minsk, e soprattutto sono puntati su quella che è la risposta della piazza. La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tsikhanouskaya, ha commentato il giuramento segreto dicendo: questa inaugurazione è una farsa, Lukashenko è andato in pensione, significa che le sue direttive alle forze dell'ordine non sono più legittime, non sono eseguibili. Io sono l'unico leader eletto del popolo bielorusso, adesso il compito è costruire insieme un nuovo paese. Qua evidentemente la leader dell'opposizione lancia un messaggio anche alle forze dell'ordine, probabilmente spera in un rivolgimento improvviso. Il tutto naturalmente avviene sotto gli occhi molto molto attenti dei vicini russi e di Vladimir Putin, che, come vi abbiamo raccontato, sulla carta, o almeno secondo le sue parole, sarebbe pronto a intervenire in caso in cui le manifestazioni prendessero una piega violenta. Cambiamo quadrante, vi do conto di un rifiuto arrivato con sdegno da parte della Palestina di prendere la presidenza di turno della Lega Araba, ed è una prima risposta, forse la più ufficiale, la più formale che si poteva avere dopo il percorso di normalizzazione di alcuni paesi arabi, in particolare Emirati Arabi Uniti e Bahrain, con Israele. I palestinesi, l'autorità palestinese, si sentono traditi da questi due importanti paesi arabi e non hanno nessuna intenzione di assumere la presidenza di turno. Nel frattempo, spinti proprio dai cosiddetti accordi di Abramo, questi accordi di normalizzazione tra alcuni paesi arabi e Israele, si attende in qualche modo l'accodarsi dell'Arabia Saudita, ma vedremo. Dicevo, sempre spinti da questi accordi, nella giornata di ieri si sono incontrati ad Ankara i rappresentanti di Al-Fatah, a capo dell'autorità palestinese Cisgiordania, e le delegazioni di Hamas, che invece amministra la striscia di Gaza. Sostanzialmente, se l'accordo di Abramo è riuscito a fare qualcosa in termini di questione israelo-palestinese, è sicuramente riunire per il momento le varie anime palestinesi. Vedremo naturalmente con che esiti. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, sono tutti, e non avevo dubbi su quelli che sono gli esiti, saranno gli esiti del nuovo patto sull'immigrazione. Vi do anche conto di segnali fortunatamente positivi, questa volta arrivano segnali positivi dalla regione montagnosa del Ladakh, il confine caldissimo tra Cina e India. È stato concordato lo stop al dispiegamento di nuove truppe tra Pechino e Delhi. Lo sapete, l'abbiamo ricordato molto spesso, quei 3.500 km di confine, i più alti sostanzialmente del mondo, sono stati teatro di parecchi scontri, alcuni probabilmente non sono mai emersi, non sono mai stati raccontati dai media. Lo scorso aprile quello più virulento ha portato alla morte di alcune decine di soldati indiani da parte cinese, come al solito massimo riservo, non sappiamo l'entità delle vittime. È un confine che ha preoccupato moltissimo gli analisti perché c'è paura di escalation in quella zona. Il segnale per il momento è confortante. E infine è poco più di una menzione, ma quando dichiarazioni di questo genere arrivano dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, forse è anche utile darne conto. Alexei Navalny può tornare in Russia in qualsiasi momento come qualsiasi altro cittadino russo. Non sono previsti incontri con le autorità, a meno che non esprima il desiderio di condividere le informazioni che attivamente fornisce ai loro colleghi tedeschi e di altri paesi. Queste le parole di Dmitry Peskov rivolte a Alexei Navalny, il quale è uscito dall'ospedale, è stato dimesso. Sui social si è fatto ritrarre con in mano una tazza di tè e accanto la moglie, sembra in buona salute nonostante il travagliatissimi ultimi giorni dopo l'avvelenamento. Vedremo se cercherà di tornare, se vorrà tornare in Russia, capitalizzare anche le parziali vittorie elettorali in alcune città della Siberia, o se il timore per la propria incolumità lo condannerà a un prossimo futuro politico da dissidente all'esterno, all'estero, e che proverà a cambiare le cose appunto dal di fuori dei confini. Questi nostri lunghi dossier internazionali, a questo punto è il momento di voltare pagina, scusate, e andare a Bruxelles. Tu a third fire in as many days in Moria Camp. Planes, helicopters and fire trucks battled what seems to be a recurring nightmare of destruction. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Moria auf Lesbos evakuieren und alle Menschen nach Europa lassen. Da stanotte ad adesso a Lampedusa sono sbarcati altri 700 immigrati irregolari. Ripeto, 700. As I've said, the Commission will come forward with a new pact on migration. And at the heart of it is a commitment to a more European system. I can announce that we will abolish the Dublin regulation. Last year, about around 1 million left the European Union. And that means that we have an extra 1.5 million people coming to the European Union every year. And we need them because we're an aging society. Il racconto in 90 secondi per introdurre il tema di quest'oggi, caldo, caldissimo, e già gli ascoltatori stanno scrivendo al 349-238-6666. Regolamento di Dublino, bye bye, forse non è esattamente così, al dispetto delle dichiarazioni pubbliche di Ursula von der Leyen, ma non solo. Il piano di riforma del regolamento prevede un nuovo patto sull'immigrazione che promette di rivedere l'intero meccanismo in vigore. In realtà l'Europa ci ha messo ben 5 anni, perché già una volta era passata al Parlamento l'idea di riformare il regolamento Dublino. Che cos'è l'ex, il defunto regolamento Dublino, anche se ho l'impressione che in qualche modo ritorni e rientri dalla finestra, eh? Allora, il regolamento Dublino impone sostanzialmente al primo paese che viene toccato dal migrante di espletare tutte le richieste di procedura d'asilo o protezione umanitaria, e in questi anni evidentemente quelli che sono i paesi più esposti ai flussi migratori si sono sobbarcati l'impegno maggiore. Un impegno che ovviamente proprio questi stessi paesi, Spagna, Francia, Italia e Grecia, hanno cercato sempre, a volte con soluzioni ad hoc, con equilibrismi politici, di ribaltare anche sulla parte di Nord Europa. Spesso si sono messi di traverso i paesi del cosiddetto blocco di Visegrad, e anche stavolta hanno fatto sentire la voce. Ma quali sono i punti fondamentali di questo nuovo patto? Sostanzialmente il primo è uno screening, quindi una serie di test, di interviste e di monitoraggio all'ingresso, ai confini dell'Unione Europea, molto più dettagliato di quello attuale, quindi non soltanto prendere le impronte digitali ma cercare di capire meglio la storia del migrante, nonché controlli sanitari. Secondo le intenzioni del nuovo patto, entro 12 giorni al massimo si saprà il percorso del migrante che sia rimpatriato o che possa richiedere asilo. Secondo punto, che forse è quello più delicato, la Commissione propone un sistema di contributi flessibili da parte degli Stati membri. Sostanzialmente gli Stati membri, su base volontaria, possono procedere alla ricollocazione oppure sborsare un ammontare di denaro che, secondo indiscrezione della BBC, potrebbe essere pari a 10.000 euro per migrante, 12.000 nel caso di minore, però il migrante a questo punto sarà preso in carico dal primo paese che ha toccato, quasi se, come dicevo, il regolamento Dublino ancora in maniera indiretta tornasse a essere in vigore. Sostanzialmente gli stati su base volontaria possono dare una mano, ricollocare oppure pagare gli altri stati, quelli frontalieri tra virgolette, per continuare a gestire. Terzo punto, maggiore cooperazione con i paesi terzi, soprattutto sul tema rimpatri, nonché una maggiore e più efficace, sempre nell'idea della Commissione Europea, del controllo delle frontiere con il corpo permanente della Guardia di Frontiera e Costiera Europea, e la quale dovrebbe iniziare le attività il 1 gennaio del 2021. Già sono arrivate le prime reazioni, tra pochissimo ve ne darò conto, non soltanto quelle di voi ascoltatori, ma per esempio già da Visegrad viene il no assoluto a qualsiasi quota di rimpatrio. I partiti più a sinistra all'interno del Parlamento Europeo dicono questa è una riforma che non funziona, non si mette il migrante al centro ma è un'intera struttura giuridica, amministrativa, burocratica e funzionale che porta sostanzialmente a respingimenti e a rimpatri. Buongiorno e ben ritrovato, Nessun Luogo è Lontano. Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Schiavone, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Lei è il vicepresidente dell'associazione che in particolare focalizza i propri studi proprio su come la legislazione affronta il fenomeno migratorio. Che cosa non, partiamo da, diciamo, le pecche, che cosa non funziona in questo patto per l'immigrazione di cui sappiamo quasi tutto? Ma innanzitutto non funziona l'approccio complessivo. Innanzitutto devo ricordare che questo patto in realtà non è nient'altro che una sorta di linea guida, di una cornice nella quale andranno poi a calarsi i futuri veri provvedimenti legislativi, che saranno molti, saranno la riforma del regolamento di Dublino, ma anche quella del regolamento qualifiche, quella del regolamento procedure, quella del regolamento accoglienza e persino quella del, che non c'è mai stato, regolamento sul resettlement da paesi terzi. Quindi in realtà il quadro, no, si realizzerà realmente nei prossimi mesi e mi verrebbe quasi da dire nell'arco del prossimo biennio realmente. Noi siamo solo di fronte a sostanzialmente una sorta di chiave di lettura. Ecco, la chiave di lettura però è una chiave di lettura assolutamente non innovativa, perché da un lato ripropone vecchi paradigmi molto logori, la collaborazione con paesi terzi per aumentare i rimpatri, sono in gran parte frasi taglia e incolla, devo dire, e sulla parte che avrebbe dovuto invece sviluppare una parte più innovativa stralcia completamente l'impostazione riformatrice del Parlamento europeo nella scorsa legislatura si allontana in realtà dal principio della obbligatoria redistribuzione dei richiedenti asilo in Europa e non valorizza minimamente, anzi annulla, l'altra caratteristica fondamentale che era stata chiesta dal Parlamento nel 2017, cioè la valorizzazione dei legami significativi delle persone con determinati paesi. Sì, quindi il ricongiungimento familiare oppure nel caso grosse diaspore, no? Sto pensando per esempio adesso anche con l'uscita del Regno Unito, tutta la grandissima comunità pakistana, afghana, indiana, sto pensando ai somali che vogliono andare in Svezia, insomma ci sono delle situazioni che sono come dire molto molto complesse e per il momento come dire questa nuova impostazione generale solleva dei dubbi, state sentendo i dubbi di Gianfranco Schiavone, che è vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Vicepresidente, c'è un altro aspetto, la mancanza di sanzioni. Se un paese non vuole aderire, e alcuni paesi l'hanno già dichiarato molto apertamente, guarda caso arriva sempre dal blocco Visegrad, non vi sono sanzioni e quindi torniamo punto a capo. Si potrebbe riproporre un meccanismo per il quale i vari paesi del nord Europa, per semplificare, pagano i paesi del sud Europa per tenersi i migranti. Non rischiamo di avere decine di campi Moria nel tutto il sud Europa, compresa anche l'Italia? No, questo è lo scenario dichiarato, nel senso che la Commissione enfatizza in maniera direi sproporzionata l'esame delle domande d'asilo sotto la base dei principi tutti da che esistono già, ma che bisognerà capire come poi verranno declinati, del paese di primo di origine sicuro o di paese terzo sicuro. E questo esame verrebbe fatto nei paesi di primo arrivo dovrebbe essere fatto chissà perché con grande velocità e con pochissime garanzie, e in caso di esito negativo le persone appunto rimarrebbero nel paese di primo ingresso, non verrebbero affatto ricollocate, e la solidarietà tra virgolette degli altri paesi consisterebbe per l'appunto sostanzialmente nel pagare per i rimpatri. Quindi la previsione è proprio quella di una grande concentrazione nei paesi di primo arrivo e si allontana la prospettiva della ricollocazione, che diventa la ricollocazione per pochi, perché vorrei anche ricordare che sostanzialmente c'è questa, la Commissione continua a temere moltissimo l'approccio, il vecchio approccio che appunto non è purtroppo stato realizzato, cioè quello di dire che chi arriva sul territorio dell'Unione Europea, qualunque sia il paese, arriva in Europa e viene ricollocato in quanto tale, poi che abbia la sua domanda, buone o meno buone chance di essere esaminata, di essere poi accolta, è una questione che riguarda tutti, mentre qui si dice ricollochiamo solo coloro che hanno effettuato un check, una sorta di preesame della domanda che ha escluso le situazioni, ma che potrebbe anche essere accettabile se si parla di situazioni veramente estreme, no? Di casi palesemente inammissibili, no? Chiaramente, ma qui ci sta allargando sostanzialmente al cuore del problema, cioè all'esame della domanda d'asilo in quanto tale. Certo, quindi certo. È come se è una sorta di esternalizzazione della procedura all'interno dell'Europa, sostanzialmente. E fra l'altro ricorda casi come quello per esempio australiano, no? In cui viene esternalizzata una funzione che invece dovrebbe essere precipua dello Stato o dell'Unione di Stati che dovrebbero sobbarcarsi questo impegno. Velocemente, perché siamo quasi in chiusura di questa prima pagina dedicata al nuovo patto sull'immigrazione, Gianfranco Scavione, c'è qualcosa che le piace di questo patto? Ripeto, sono linee guida, verranno riempite come giustamente ricordato, un lato positivo lo trova? Devo sforzarmi molto, devo dire la verità, sì. E lo trovo solo in qualche accenno, ma molto vago, al richiamo all'imperativo morale dei soccorsi al mare e al fatto che nei confronti, per l'appunto, degli arrivi e degli sbarchi, degli arrivi via mare, la Commissione dice che bisognerà avere una sorta, diciamo, di... che proporrà una strategia ad hoc che coinvolga tutti, come se fosse una sorta di condizione... in qualche modo sì. Che supera le altre, ecco, quindi fa un vago accenno a una condivisione un pochino più forte, ma rimane un vago accenno, perché in che cosa consisterebbe questo reale meccanismo di condivisione in questo rinnovato, addirittura fa un accenno all'idea di riprendere, no, i salvataggi via mare attraverso una concertazione europea, ma e con parole di una vaghezza che devo dire estremamente difficile da cogliere. Naturalmente adesso, Gianfranco Scavone, ci sarà un iter europeo che porterà questo piano davanti al Parlamento, poi passerà al Consiglio, potrà essere emendato ed eventualmente riempito con indicazioni più dettagliate, quindi Gentile Schiavone, vicepresidente di ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ho l'impressione che ci risentiremo presto, spero presto e spero non 2 anni come ipotizzava lei, perché si riempia questo nuovo patto. 2 anni almeno per un esame realistico, certo. Diciamo, però spero anche di meno, ci sarà molte cose da dire e molti contrasti sicuramente. Grazie mille Gianfranco Schiavone per essere stato con noi. Così chiudiamo la prima pagina sull'immigrazione, torneremo a parlarne. Intanto leggo i vostri messaggi, ve ne do racconto tra pochissimo. Subito la borsa, poi andremo a Caracas e Bogotà. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, tra pochissimo volteremo pagina, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione del nuovo patto sull'immigrazione presentato dalla Commissione Europea, da Ursula von der Leyen, che è particolarmente divisivo, lo è anche tra voi ascoltatori, anche se la maggior parte dei messaggi che arrivano al 349-238-6666 sono venati di una certa frustrazione e tristezza. Italia, campo profughi d'Europa, vergognoso, così scrive Alberto, 2 passi avanti e 3 indietro, tanto il problema rimane, quindi di cosa stiamo discutendo? Fallimento totale della politica europea. Un altro ascoltatore, il superamento del Trattato di Dublino, temo che cambierà per non cambiare niente, troppi paesi membri non vogliono migranti. E poi qualcun altro, anche con linguaggio non particolarmente ortodosso, per cui non leggerò, si preoccupa sostanzialmente di fermare il flusso di clandestini. Mi addita come tifosi dell'immigrazione clandestina. Guardi, gentile ascoltatore, se faccio il tifo è semplicemente per lo Stato di diritto e rispetto del diritto internazionale. Su quello non ci piove. Stiamo parlando di immigrazione. Questo è un dossier che ha afflitto anche le relazioni tra Venezuela e Colombia. Allora apriamo questa seconda pagina. In questa seconda parte viaggiamo tra Caracas e Bogotà. Quella frontiera ha visto una fortissima pressione migratoria in questi anni. Dall'inizio della crisi venezuelana 4 milioni di cittadini sono fuggiti, più di 1 milione sono scappati proprio in Colombia. Ma la grande attualità internazionale, le ultimissime notizie ci riferiscono anche di ulteriori tensioni proprio tra Caracas e Bogotà. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano all'ambasciatrice colombiana in Italia, Gloria Isabella Ramirez Rios. Ambasciatrice, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, ambasciatrice, io partirei dalle dichiarazioni del presidente Iván Duque, che ha, senza mezzi termini, accusato il governo venezuelano di rappresentare una minaccia costante, ha chiesto elezioni libere in Venezuela. In che modo la Colombia è minacciata o si sente minacciata dal Venezuela di Nicolás Maduro? Buongiorno ancora una volta. Va chiarito che le differenze esistono con il regime dittatoriale di Maduro, non con i cittadini venezuelani, che continuano a ricevere e servire nel miglior modo possibile dal governo colombiano. Sì. Questo è molto importante da dire prima di tutto. Come il presidente ha detto, il regime dittatoriale di Maduro si sostiene con il risorse del traffico di droga, ospita terroristi ed una minaccia costante per la democrazia, non solo per la Colombia, ma per tutta la regione e per tutto il mondo. Sono parole molto forti, ambasciatrice, quelle pronunciate dal presidente Iván Duque. Al di là di queste perentorie parole, però, c'è stato anche un movimento molto più diplomatico, più sottile, se vogliamo. Nella iniziativa Paz y Legalidad, pace e legalità, il presidente Duque ha dialogato con alcuni ex presidenti dell'area. In che modo questa cordata di volonterosi paesi dell'America Latina vuole soccorrere, vuole cambiare le cose in Venezuela? Le cose in Venezuela si devono cambiare e dobbiamo fare un appello forte a tutte le nazioni del mondo per alzare le voci, chiedendo elezioni veramente libere e non l'orchestra elettorale prefabbricata che indurrebbe solo al perpetuare la dittatura. È questo che abbiamo bisogno e penso che è un dovere di tutte le nazioni del mondo, perché la dittatura della Venezuela cerca di ottenere attraverso i crimini contro l'umanità perpetuare la tirannia a Venezuela. Noi in Colombia abbiamo già circa di 1.800.000 migranti venezolani, sì, e se dicono che sono 5 milioni di venezolani che hanno uscito la Venezuela, sì, questo è un e perché devono andare? Perché è una tirannia quello che succede in Venezuela. Ambasciatrice, come vi rapportate con Juan Guaidó, il leader dell'opposizione, che è stato riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale, che ingaggia questo braccio di ferro con Nicolás Maduro? È una figura che il governo colombiano, come dire, apprezzerebbe se ci dovesse essere un cambio di passo in vista delle elezioni parlamentari del 6 dicembre? In questo senso non vi posso dirti, perché io dico quello che ha detto il Presidente delle Nazioni Unite. Lui sta contro la dittatura venezolana di Maduro, ma chiede per elezioni aperte. Allora, si è Guaidó o si è un altro, e i venezolani chi devono decidere in un'elezione aperta e democratica. Sì. La voce che state ascoltando è quella dell'ambasciatrice colombiana in Italia, Gloria Isabella Ramirez Rios. Ambasciatrice, anche a Bogotà si vivono giornate particolarmente tese. Ieri i sindacati hanno convocato una protesta contro una nuova norma sul lavoro, contro i recenti massacri, gli abusi della polizia. La Colombia non è troppo occupata sul fronte interno per occuparsi anche dell'ingombrante, del pericoloso, come dice Iván Duque, vicino venezuelano? Sì, questo, ma guarda che in queste rivolte, quello che hanno trovato le autorità colombiane è che queste rivolte e movimenti contro la non verità di che il governo non pone il processo di pace in verità e che mette il risorse, questo sono tanti venezolani che hanno trovato lì a queste rivolte. A queste manifestazioni sono tanti venezolani che sono messo lì, e questo lo hanno inviato tantissimi venezolani indietro in Venezuela. Questo è un problema anche delle Venezuela ed è una gente che dice che non è vero, che il governo non rispetta, sì, il processo. Invece il processo è stato rispettato, il governo colombiano continua a rispettare coloro che lo rispettano, e chi non lo fa verrà imposto il peso della legge. Ancora una volta vi ricordo che state ascoltando la voce dell'ambasciatrice colombiana in Italia, Gloria Isabel Ramirez Rios. Ambasciatrice, c'è un dossier che è particolarmente caldo e caro a noi italiani dopo la scomparsa di Mario Paciolla, trovato cadavere a San Vicente del Caguán. Continua a scuotere l'opinione pubblica, evidentemente. Le ricostruzioni giornalistiche escludono l'ipotesi del suicidio. Ci può raccontare meglio come si stanno svolgendo le indagini in Colombia e se c'è una buona cooperazione e collaborazione tra Colombia e Italia su questo tema? In questo momento sono in corso 3 inchieste, una dal governo colombiano, un'altra dal governo italiano e un'altra dalle Nazioni Unite. La Colombia ha mostrato trasparenza e collaborazione verso la inchiesta. I ministri degli affari esteri della Colombia, Claudia Blum de Barberi, e il ministro italiano Luigi Di Maio sono intervenuti direttamente in diverse occasioni. L'ambasciatore italiano in Colombia, Gerardo Maducci, ha parlato senza restrizione con l'autorità colombiana e con tutti. Sì. E abbiamo parlato con la famiglia di Mario Paciola, il console li ha anche accolti all'aeroporto, ma non posso dire più perché queste sono inchieste che vanno ancora in corso. Sì. Ci può dire almeno, ambasciatrice, per quello che può dire, se come dire, l'inchiesta colombiana ha messo gli occhi anche su l'operato delle Nazioni Unite e dell'ONU? No, comunque, ripeto, che sono tre indagini, una delle Nazioni Unite, una dell'Italia e una della Colombia. Le hanno chiesto alle Nazioni Unite di togliere la immunità diplomatica per poter continuare con le indagini. E questo è un dato, probabilmente anche abbastanza significativo. Grazie mille all'ambasciatrice Gloria Isabella Ramirez Rios per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro, ambasciatrice. Grazie mille, a presto. Allora, ci sono un po' di reazioni al 349-238-6666. Il tema Venezuela e America Latina nel suo complesso è particolarmente divisivo, ma si vede che questa puntata in nessun luogo lontano lo è. Prima abbiamo parlato di immigrazione e poi abbiamo viaggiato tra Bogotà e Colombia. Tra pochissimo, naturalmente, ve ne darò conto, vi anticipo che tra pochissimo avremo un altro ospite che ci aiuterà in qualche modo a mettere il grandangolo e ritirare un po' le fila di questa strana relazione tra Bogotà e Caracas, nemici amici o le relazioni pericolose. Insomma, difficile trovare uno slogan che vada a riassumere questa tormentata relazione. Ve la racconto subito dopo la viabilità. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, anche se devo dire che per alcuni dovrei togliere l'epiteto gentile perché volano i coltelli, ma in particolare sulle parole pronunciate dall'ambasciatrice che è stata nostra ospite. Qualcuno dice, ma insomma qua è un problema di trave e pagliuzza, la Colombia ha dei problemi incredibili anche di narcotraffico, come si fa a puntare il dito sui vicini venezuelani? Poi, come immaginavo, molti di voi ascoltatori si dividono tra quelli che sono pro il governo di Nicolás Maduro e chi invece è totalmente contrario. Proviamo a non soltanto mettere il grandangolo, ma anche a guardare, osservare, analizzare la situazione nella maniera più neutra e possibile. D'altra parte è interessante anche quello che sottolineava l'ambasciatrice sul caso Paciola, cioè è stata chiesta di togliere l'immunità ai funzionari ONU per poter meglio indagare, questo già alla dici lunga. Torneremo sul tema, ve l'abbiamo detto, all'inizio di questa stagione. Cercheremo di dare voce, di accendere i riflettori e continuare a parlare del caso Paciola. C'è qualcuno che scrive: non ci interessa la Colombia, non ci interessa il Venezuela. Perché dovrebbe interessarci? Beh, perché per esempio ci sono 2 milioni di italo-venezuelani e un legame fortissimo con le nostre imprese. Così, per rispondere a qualche ascoltatore che preferisse guardarsi l'ombelico. Chi non se lo guarda è sicuramente il prossimo ospite, che è Diego Battistessa, latinoamericanista, docente, ricercatore all'Università Carlos III di Madrid. Battistessa, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Salve Giampaolo, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi. Allora, che idea ti sei fatta? Hai ascoltato anche la chiacchierata con l'ambasciatrice, di questa presa di posizione violentissima da parte del presidente colombiano Duque. Ha detto sostanzialmente Maduro si finanzia con le risorse del narcotraffico, ospita terroristi, è una minaccia costante anche per la Colombia. Che cosa significa questo segnale? Che idea ti sei fatto? Ho ascoltato le dichiarazioni dell'ambasciatrice Rios, che chiaramente sono figlie di un'ottica diplomatica che mette sul tavolo buoni e cattivi, un gioco che Venezuela e Colombia stanno facendo da molto tempo. E parlando di grandangolo, Giampaolo, è importante segnalare come Venezuela e Colombia nascono dallo stesso progetto di Simón Bolívar, che dopo la sconfitta del colonialismo spagnolo, insieme al generale Paula de Santander, decide di creare il sogno alla Grande Colombia. Da lì inizia un po' questo scontro: da un lato Simón Bolívar, dall'altro per il Venezuela, dall'altro Paula de Santander, e che cominciano uno scontro. Addirittura pensa bene che una della parte più retorica di Chavez, una della focus della narrativa di Chavez quando arriva al potere, è proprio che la Colombia fin dall'inizio ha cercato di affossare il Venezuela, perché si dice che Santander abbia attentato alla vita di Bolívar. E da lì inizia proprio questo scontro narrativo, ideologico, tra buoni e cattivi. Quindi ci portiamo dietro un po', da circa 180 anni ci portiamo dietro questo, questo buoni e cattivi tra Colombia e Venezuela. Però, arrivando al giorno d'oggi, ci sono delle dinamiche molto più complesse, molto più complesse. Ecco, su tutte è innegabile che la Colombia abbia sopportato un peso migratorio da parte di profughi venezuelani che scappavano da una crisi ormai che dura da tantissimi anni, economica, politica, e chi più ne ha più ne metta. Un Venezuela che sembra essere sempre più isolato, no, Diego Battistessa? Un Venezuela su cui punta il dito l'ONU, ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi, su cui punta il dito l'amministrazione Trump, con sanzioni verso 5 alti funzionari, apparentemente pro Maduro, ma in realtà insomma dell'opposizione, anzi il contrario, perdonate, ma apparentemente dell'opposizione, ma in realtà pro Maduro. Un Venezuela sempre più isolato che chiede aiuto, e lo trova in un Iran che manda petroliere, come se fosse sostanzialmente delle scialuppe di salvataggio ricche di oro nero. Ma questo isolazionismo a cosa può portare? Sì, hai colto il centro della questione. Il Venezuela è ad oggi quello che viene chiamato conflitto internazionalizzato, cioè in Venezuela si giocano delle dinamiche che non sono più solo interne. Da una parte abbiamo gli interessi, l'ingerenza statunitense di storica data su tutta l'America Latina, e dall'altra abbiamo un blocco costituito da Cina, Russia ed Iran che continuano ad appoggiare il governo di Nicolás Maduro. In America Latina invece abbiamo, ricordiamolo, il gruppo di Lima, un gruppo che si è formato appunto per opporsi a questo socialismo del secolo XXI che veniva dall'inizio degli anni 2000 come un'onda, come una grande marea in tutta la regione, e che adesso invece trova grossi appoggi da governi come per esempio quello brasiliano, che hanno cambiato di segno politico. Sì. E l'isolazionismo del Venezuela è un isolazionismo che porta a dei rapporti molto pericolosi con dei paesi come l'Iran, che sono sotto il mirino della comunità internazionale per le questioni, per esempio, del nucleare. E una delle scuse utilizzate, dico scuse, arriverò al punto, perché dagli Stati Uniti per attaccare il Venezuela ed aprire queste nuove sanzioni è appunto questo rapporto iniziato già molti anni fa tra Hugo Chavez e Mahmoud Ahmadinejad, dove appunto il Venezuela cercava, o così si dice, forniva uranio al programma di sviluppo nucleare dell'Iran. Ora bene, fa un po' ridere, permettimi un po' questa espressione colloquiale, che gli Stati Uniti decidano di farvi dare delle sanzioni a degli esponenti del governo venezuelano, tra cui Maduro, facendo riferimento a un accordo di proliferazione nucleare dal quale loro si sono ritirati. Usciti. Certo. E quindi, esatto, quindi appunto a livello di comunità internazionale non si capisce la postura, la posizione di Trump, che è una posizione molto molto partitaria e che non sta facendo leva su un vero e proprio codice delle relazioni internazionali. Abbiamo gli ultimi minuti, li spendiamo con Diego Battistessa, latinoamericanista, docente, ricercatore dell'Università Carlos III di Madrid, una lunga esperienza nei paesi che vi stiamo raccontando in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Le agenzie, poche in verità, forse più quelle di lingua spagnola, riportano di scontri su quei porosissimi confini tra Venezuela e Colombia, tra le FARC, che è una sigla che ben conosciamo, ma una sigla che, lo confesso, assolutamente a me sconosciuta, GNB, morti da parte dei venezuelani un paio di giorni fa. Se puoi, sintetico, in un minuto e mezzo, cosa sta accadendo, Diego Battistessa? GNB, Guardia Nazionale Bolivariana, quindi stiamo parlando della polizia bolivariana, dall'altra abbiamo le FARC. Appunto stiamo parlando del confine fluido tra Colombia e Venezuela, siamo nel nord-est della Colombia, il dipartimento di Norte del Santander, la Guajira, e quei dipartimenti, quelle zone che hanno visto l'esodo massivo appunto dei 5,2 milioni di venezuelani, ovviamente non tutti in Colombia, oggi abbiamo quasi due in Colombia, e che cercano di attraversare il confine. È un confine fluido nel quale abbiamo narcotraffico, contrabbando e bande criminali che operano indistintamente da un lato e dall'altro. Queste bande criminali spesso e volentieri si appoggiano anche alla Guardia Nazionale Bolivariana dal lato venezuelano, alle FARC del lato colombiano e anche alla polizia delle volte dal lato colombiano. Quindi si tratta di quelli che chiameremo in città scontri tra bande, Giampaolo, per il controllo del narcotraffico e del contrabbando. Sul discorso migrazione, questa frontiera è importante ricordarlo, negli anni passati, prima che iniziasse il flusso migratorio venezuelano, e ospitava un flusso contrario, perché negli ultimi 50 anni di guerra sono stati i colombiani ad andare in Venezuela. Certo, quella guerra civile ha prodotto migranti, ma questi sono i ricorsi e i paradossi della storia. L'America Latina non è esente. Diego Battistessa, lo ricordo, docente ricercatore all'Università Carlos III di Madrid, stai qua con me perché ti tocca un battesimo, quello di essere violentemente sbattuto fuori dagli studi. Senti. You're fired. Col sorriso, naturalmente, scherzosamente. Grazie mille a Diego, grazie mille a voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.